sotto il fio del Guglielmo Tell, che l'era un grano. Però de mei gente i se ricorda neanche al nom, e pensa che se rimè quel fio con la poma in se la grappa, e potevi me a tremare e pregavi, sperem che la ciapa. E i genti me guardaven, tutti me guardaven giù della finestra, e gli occhi me puntaven tutti, ma me guardavi la balestra. Dai papà, dai papà, proviamo almeno con l'anguria. Non dubitar di me, figlio mio, lo sai che ti fengo una furia. Dai papà, dai papà, proviamo almeno col melone. Non si può, figlio mio, tu lo sai, e poi non è neanche la stagione. Dai papà, dai papà, proviamo almeno col pompelmo. Non temere, figlio, tuo papà si chiama Guglielmo. Però le menga per tambel, per sfio del Guglielmo Tell. E perché me de quella volta sunt in gir con l'alba tel. Sun content per il me pa, se se che l'han fatto eroe nazionale. Ma d'allora se vedo una mela comincio a stare male, male. Il papà le raggiò in fondo della le raggiò che ciappava la mira, e me sudavi fresh perché tra l'altro il seguitava, il seguitava, bev giò bira. De smettela de bev, papà, se no te che vede tupi. Niente paura, figliolo, mal che fata te cupi. Ecco, lo sento, lo sento, adesso scocca. Chi è quel bigolo che ha parlato, come sarebbe a dire, proviamo con l'albicocca. Perché le menga per tambel, per spie del Guglielmo Tell. Perché me de quella volta sun più sta quel. E sun content per il me pa, sì sì che l'han fatto eroe nazionale. Ma da allora se vedo una mela comincio a stare male, male. Sunt el fie del Guglielmo Tell, sunt el fie del Guglielmo Tell, sunt el fie del Guglielmo Tell, che se menga sbassa sali da un capel.